visto che abbiamo avete fatto riferimento anche un po' a scenari futuri, stavo pensando che per fortuna il traduttore automatico non c'è ancora e Sandra Biondo può ancora lavorare, Google forse ci sta lavorando, però nel frattempo possiamo ancora parlare delle condizioni di lavoro invece dei traduttori, che è un lavoro che sicuramente la caratteristica principale è di essere altamente specializzato, e quindi questo è un vostro vantaggio, cari lavoratori specializzati. No, direi che si sente? Direi che noi siamo in una posizione decisamente anomala dentro a questo meccanismo para-industriale dell'editoria, perché non possiamo assolutamente aspirare nemmeno a livello di raccontini a un discorso di stabilizzazione del lavoro. Noi non abbiamo un contratto con un editore che ci vincola a un lavoro con quell'editore. Noi abbiamo un contratto in regime di diritto d'autore per singolo libro e quindi siamo in una posizione veramente molto ambigua. Non abbiamo tra virgolette, la libertà dell'autore che decide che cosa scrivere, quindi si assume anche un rischio, nel senso che se pensa che la storia che ha da raccontare sia di interesse del pubblico, la scrive, la propone e cerca qualcuno che gliela pubblichi, ma è farina del suo sacco. E al tempo stesso, però, quindi noi traduciamo quello che ci chiedono di tradurre, traduciamo anche libri di self-help. Io nel mio curriculum di traduttrice della lingua portoghese ho una quantità inenarrabile di libri di questo tipo che io ho ribattezzato simpaticamente Le Vaccate, perché dal punto di vista del contenuto, quello sono, però bisogna pur mangiare, no? Poi c'è qualche bella perla di letteratura, di biografia, di saggistica, però appunto sono le perle che i diamanti in mezzo al letame. Questo è, con tutto rispetto, anche per chi poi li pubblica e ci mangia e ci mantiene anche la contabile e dà lavoro al grafico, quindi per carità, non è che voglio necessariamente buttare via tutto, e c'è anche chi li legge. Comunque, per cui noi siamo in questa posizione che non siamo né lavoratori né autori, siamo pagati come autori dal punto di vista rigorosamente fiscale, ma in realtà non siamo pagati a percentuale. Per fortuna, perché altrimenti il libro che vende 1500 copie, no? Siamo pagati a cottimo, siamo pagati a cottimo e in un esatto, a cartella, in una situazione per cui il mercato, come voi ben sapete, sta peggiorando notevolmente la nostra situazione, soprattutto a livello di tariffe, che sono in calo, in netto calo, io posso parlare degli ultimi 7 anni, che sono quelli in cui ho lavorato in questo settore, e le tariffe sono o ferme o diminuite, non so, in 7 anni. Per questo motivo alcuni di noi si sono messi insieme con l'obiettivo di perseguire una maggior dignità del lavoro, anche il riconoscimento del lavoro del traduttore, perché lo vediamo per esempio quando vengono pubblicate le recensioni di giornali stranieri, scusate, di libri stranieri, che sono la stragrande maggioranza di quello che viene pubblicato oggi in Italia, e appunto viene messo il titolo, l'autore, l'editore, il numero di pagine, il prezzo, e 3 volte su 4 viene omesso il nome della persona che ha riscritto quel libro, perché questo noi facciamo, riscriviamo in italiano un'opera che altrimenti potrebbe essere letta solo da chi parla e è in grado di comprendere la lingua di origine, salvo poi sentir dire: ah, ho letto il libro tale. Io faccio parte di un gruppo di lettura legato alla comunità virtuale di Anobi qui a Bologna, facciamo incontri mensili e spesso capita di sentire: ah, ho letto questo libro, è scritto benissimo. E allora io domando: l'hai letto in lingua originale? No, e allora come fai a dire che è scritto benissimo? Cioè, ha una traduzione molto efficace, speriamo che sia scritto così bene anche nella lingua originale. Ecco, perché a volte succede anche che ci siano libri scritti mediocremente nella lingua originale che nelle mani di un traduttore particolarmente creativo diventano dei libri scritti bene. Così come delle volte succede il contrario, ci sono dei libri scritti con uno stile particolare che o per poca perizia del traduttore o per ordini di scuderia della casa editrice che vuole appiattire la lingua su uno standard che risponde di più a criteri commerciali, col lavoro del traduttore o a volte col lavoro di qualche redattore che viene incaricato di rivedere radicalmente il testo, questo libro viene completamente appiattito. Vi dicevo, alcuni di noi si sono messi un po' in discussione e alcuni anni fa, nel 2004 per la precisione, abbiamo deciso di fondare un sindacato, che non è propriamente la forma più, cioè non è il sindacato tradizionale, ecco, del lavoro. Noi ci siamo appoggiati al Sindacato Nazionale Scrittori, in quanto riteniamo che il traduttore editoriale, il traduttore soprattutto di letteratura, di saggistica o di poesia, sia un autore a tutti gli effetti, anche se appunto non decide lui che cosa scrivere, però di fatto è un autore perché riscrive letteratura, e abbiamo fondato la sezione traduttori che al momento conta pochi iscritti, devo dire, direi che dovremmo essere sui 130-140 iscritti, comunque tutti o la stragrande maggioranza professionisti già con un curriculum abbastanza corposo, ecco, anche se la richiesta minima per l'iscrizione è avere almeno un titolo pubblicato, però la maggioranza di noi insomma siamo traduttori con già una certa esperienza professionale. Alcuni addirittura che vivono solo di traduzione, che è molto difficile vivere solo di traduzione editoriale, proprio perché in questo momento c'è uno squilibrio mostruoso fra domanda e offerta, quello che voi dicevate all'inizio, per esempio, rispetto a questa quantità enorme di corsi che vengono proposti per il redattore editoriale. Sta succedendo la stessa cosa nel mondo della traduzione, col fatto poi che le università, se hanno un master a pagamento con un cospicuo numero di iscritti, dentro a una logica di valutazione dei corsi, mi sembra di capire che avere molti iscritti e per di più paganti sia un titolo di merito perché un corso possa andare avanti. Ci sono moltissimi corsi di lingue, per esempio, che stanno proponendo master in traduzione, e in questo momento c'è un'infornata annuale di aspiranti traduttori che crea veramente un grosso problema di mercato, per carità, senza nulla, cioè io non ce l'ho mica coi giovani, intendiamoci, non è questo il problema. Il problema è che siamo in una situazione tale per cui già delle tariffe basse, come sono i 13-14 euro a cartella, riesce a spuntarla un traduttore già esperto. Ed è una tariffa bassa, perché noi facemmo una ricerca con gli iscritti a Biblit alcuni anni fa, una specie di statistica, per calcolare il tempo medio di traduzione di una cartella di 2000 battute. Tempo medio significa dal momento in cui ho per la prima volta in mano il libro originale al momento in cui consegno la traduzione con le bozze riviste, diviso il numero di cartelle che ho tradotto, quindi non l'opera di traduzione di una pagina lì per lì che poi richiede riletture, revisioni, ricerche lessicali e moltissime altre cose. Abbiamo calcolato che la media di un libro mediamente difficile, quindi non di un'opera particolarmente complicata e nemmeno di un libro di autoaiuto, si aggira intorno ai 58 minuti. Quindi significa che per tradurre bene una cartella di 2000 battute ci vuole circa un'ora. Ora capite da soli che una tariffa di 12 o 13 euro all'ora lordi sono poco più di quello che prende una persona che stira e li prende in nero. Quindi siamo davanti a una situazione per cui questa grande massa di aspiranti traduttori, talmente tanti che spesso purtroppo questo discorso di qualità che faceva prima Guaraldi non è vero, nel senso che ci sono moltissimi aspiranti traduttori che credono solo per il fatto di aver fatto un corso di essere in grado di riscrivere un libro di letteratura e riscriverlo bene e capire tutto quello che l'autore voleva dire e come voleva dirlo. E spesso, purtroppo, questo non è vero. Ci ritroviamo davanti a giovani che dicono: io sono disposto a lavorare a 3 euro a cartella pur di avere un titolo nel curriculum. E concludo. Siccome io sono una delle persone che di traduzione non riesce a vivere, per la cronaca sono 3 anni che non firmo un contratto di traduzione di libri. Faccio altre cose, dizionari, lezioni di portoghese, traduzioni di altro genere, eccetera, ma libri, l'ultimo contratto l'ho firmato 3 anni fa. Una delle cose che io faccio è lavorare in un CAF. Io faccio le dichiarazioni dei redditi 3 mesi l'anno. Tant'è vero che nell'ambiente della traduzione ormai sto diventando una specie di... sono la consulente fiscale del sindacato, veramente, nel senso che abbiamo un servizio di consulenza fiscale a pagamento e io sono la consulente fiscale del Sindacato Nazionale Scrittori, e vengo chiamata a dare docenze su questa parte più pratica legata alla professione, quindi tariffe, contratti, diritto d'autore, fisco, dichiarazioni dei redditi, eccetera. E quando io mi trovo davanti, soprattutto giovani, perché sono soprattutto persone che stanno iniziando, sperano di iniziare questa professione, e mi dicono: ma tu fai presto a parlare, tu sei affermata, infatti sono 3 anni che non firmo un contratto, noi pur di lavorare siamo disposti appunto a lavorare per 3 euro a cartella, 4 euro a cartella, io mi ritrovo a dire: voi dovete dire all'editore, io sono esordiente, la mia tariffa minima è 10 euro a cartella, questo libro te lo faccio gratis come favore, perché piuttosto che diventare il traduttore che lavora per 3 euro a cartella e dopo quell'etichetta non te lo schioderai mai, non sarei mai il traduttore che lavora per 17-18 euro a cartella se sei quello che ne prende 3. Allora piuttosto digli il libro, questo libro te lo faccio gratis, sappi che la mia tariffa minima, visto che sono un esordiente, è 10 euro, 11 euro, 12 euro. È bruttissimo dire così, perché vuol dire incentivare il lavoro gratuito, però secondo me uno dei nostri obiettivi è anche proprio che cerchiamo di perseguire quando parliamo con i giovani colleghi a livello di sindacato è il riconoscimento della dignità di una professione. E una professione in cui tu accetti di essere pagato 3 euro l'ora è una professione che tu stesso stai dicendo che vale 3 euro l'ora. E allora come la mettiamo? Io veramente preferisco dire: faccio del volontariato di qualità in pro di un povero editore, cioè adesso è un po' ironia, però in pro di un povero editore faccio del volontariato di qualità, preferisco regalare un bel lavoro che svenderlo. Ecco, questa era un po' la cosa che vi volevo dire.